Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Ricordati che tanti pentiti hanno parlato del terzo livello inizialmente, ma poi si sono frenati perché dice che non c'erano le condizioni politiche. Ricordati che il signor Franco è il quarto livello. E per quel quarto livello, di cui parlò più volte a Storiacce, ora Massimo Ciancimino è di nuovo in carcere, mentre per i magistrati che l'hanno arrestato, il CSM ha chiesto alla prima commissione, quella dei trasferimenti per incompatibilità ambientale, e alla Cassazione di avviare indagini. Magistrati tra cui, soprattutto, c'è il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia. Non commento in alcun modo perché non so quali siano le motivazioni di questa iniziativa. Quindi. Vi turba? No. Siete tranquilli? Noi siamo tranquilli, peraltro voglio dire anche quei momenti di divergenza di vedute che c'erano dopo che al Finestretto sono già state superate, quindi non ci preoccupa. Non vi preoccupa questo tipo di iniziativa? Non temete che ci possa essere un trasferimento? Allo Stato non ho motivo, non c'è motivo di preoccupazione da parte nostra. Da teste in più inchieste a plurindagato per calunnia e truffa aggravata per il pizzino risultato manomesso col nome del prefetto Gianni De Gennaro, come per l'esplosivo fatto ritrovare nel giardino di casa. Finisce per ora nel carcere di Parma la parabola del figlio scapestrato di Don Vito, il politico che i corleonesi vollero sindaco di Palermo. Lui che per sua stessa ammissione fu destinato a diventare l'ombra del padre perché era l'unico dei fratelli a non aver studiato e per questo di quel padre conobbe segreti e misfatti che raccolse come pesante eredità nel bottino di biglietti scritti fitti fitti da Don Vito e anni dopo consegnati, anche se a rate, ai magistrati che l'hanno ascoltato. Misteri, ombre e interrogativi hanno avvolto da subito la storia giudiziaria di Massimo Ciancimino, condannato per il riciclaggio del tesoro del padre, le cui dichiarazioni però hanno trovato anche talvolta conferme, ricorda il procuratore aggiunto palermitano Antonino Ingroia, ed è per questo che ora l'arresto viene considerato da molti come l'occasione per fare chiarezza del tutto sulla sua collaborazione, sull'autenticità delle dichiarazioni, sull'esistenza o meno di un puparo. Ha fatto tutto da solo Ciancimino Junior o qualcuno lo ha teleguidato? Mentre le procure di Palermo e Caltanissetta discutono sulla valutazione del figlio di Don Vito e ciascuna continuerà a portare avanti in autonomia le proprie indagini, il peso di questa domanda si spalma sulle inchieste intorno alla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia ancora aperte in Sicilia, ma anche a Firenze. In caso di complici ci sarebbe un disegno più complesso da comprendere fino in fondo, riflette con Storiacce Ingroia, il PM che ha più volte ascoltato Ciancimino nelle inchieste, ma che poi lo ha fatto anche arrestare per calunnia e che da allora è stato non poco attaccato e criticato, mentre partono indagini anche del CSM e della Cassazione sull'operato dei magistrati. Come ben ha detto il procuratore Messineo, non è che di per sé l'attendibilità di tutte le dichiarazioni di Ciancimino viene compromessa. È chiaro che incriminazione per calunnia è la più grave delle accuse, si può fare nei confronti di un testimone, diciamo, utilizzato come elemento di prova. Però ci sono altre dichiarazioni già acquisite in alcuni processi da Ciancimino che sono risultate quelle puntualmente riscontrate, la cui validità rimane. Si tratterà di approfondire il tema di questa calunnia per vedere se in qualche modo finisce per diffondersi, diciamo, e contagiare altre dichiarazioni. Mescolare il vero e il falso non potrebbe essere, soprattutto considerando anche la delicatezza delle tematiche di cui parla Massimo Ciancimino, non potrebbe essere anche una tesi volta a confondere le acque? Sì, in questo momento tutte le ipotesi sono valide. Credo che la vicenda della calunnia ancora non si sia chiarita in tutte le sue sfaccettature e quindi credo importante che prima di trarre conclusioni, di andare avanti, completare l'indagine di questa vicenda di calunnia, quando avremo un quadro più chiaro e completo, e ad esempio se Ciancimino ha fatto tutto da solo, se ci sono dei complici, eccetera, potremo poi trarre conclusioni più chiare anche per una più ampia valutazione della attendibilità delle sue dichiarazioni. Ecco, lei ci ha fatto già riferimento, è andato subito ad uno dei punti adesso in discussione. Ci vede l'ombra di un puparo, come si sta dicendo? Ma puparo o non puparo, si tratta di vedere, ripeto, se ha fatto tutto da solo o se possono esserci eventuali, appunto, correi. È chiaro che un giacimento che fa tutto da solo è un conto, saremmo in presenza, non so, di un test appunto inattendibile, un calunniatore, e se invece ci fossero dei complici, allora saremmo in presenza di un disegno, diciamo, più complesso e da decifrare nella sua interezza. Ma che vantaggi, che tipo di interesse potrebbe avere, anche se il personaggio, ecco, anche lei stesso più volte l'ha detto, è uno che parla troppo, anche noi giornalisti, diciamo, lo abbiamo in qualche modo verificato questo, sicuramente non è un personaggio che lesina le dichiarazioni, al contrario del padre, ma che interesse potrebbe aver avuto nel mescolare cose o nel dire cose non vere, sapendo benissimo che cosa rischiava? Capisco, diciamo, la giusta sua domanda. Il punto è che noi in questo momento non siamo in grado di dare risposte a tutte le domande legittime, sono domande che ci facciamo anche noi. Ci sono varie ipotesi, però bisogna ragionare sulla base di elementi concreti, quindi io rinvierei davvero al momento di conclusione di questa indagine, che non è lontanissimo, credo che si possa giungere ad avere un quadro più chiaro nel giro di poco tempo e potremo, spero, chiarire anche le ragioni, il movente di queste condotte. Il suo riferimento al poco tempo e alla chiusura delle indagini sulla trattativa Stato-mafia? No, io mi riferisco specificamente all'inchiesta per l'arresto. La calunnia, questa specifica che riguarda Ciancimino. L'indagine sulla trattativa è molto complessa, delicata, articolata, quindi non credo che potrà concludersi in pochissimo tempo. Ecco, ma quanto pesa il ruolo, le dichiarazioni e i documenti portati da Ciancimino anche nella vostra inchiesta sulla trattativa? Ha avuto un suo ruolo, un suo contributo. L'indagine esisteva già e a prescindere sulla base di altri elementi, rispetto alle quali le dichiarazioni di Ciancimino si sono inserite, hanno dato una conferma, avevano ricevuto delle conferme, ma è che è venuta meno quelle dichiarazioni, viene meno l'indagine. Non vi va ad inficiare l'inchiesta? No, non nel suo complesso, un eventuale giudizio di inattendibilità complessivo di Ciancimino danneggerebbe sicuramente una parte dell'inchiesta, ma non tutta l'inchiesta nel suo complesso. Lei direttamente, procuratore, ha provato delusione quando avete ricevuto quella relazione che vi confermava la manomissione di quel documento con il nome di De Gennaro? Nel contempo, da una parte, quando si fanno dei passi avanti verso la verità, non è delusione ma è soddisfazione. E la delusione, certo, nei confronti di un test utilizzato come testo d'accusa in alcuni processi che si è rivelato quantomeno in parte inaffidabile, questo sì. Perché appunto inserendolo come test d'accusa in processi importanti come nel processo Mori ad esempio, in qualche modo è stato anche un attestato di credibilità vostra, di attendibilità vostra. Cambierà la vostra linea anche rispetto all'utilizzo di Ciancimino in alcuni processi, a cominciare appunto da quello Mori ad esempio? È presto, dicevo, per trarre conclusioni definitive. Noi abbiamo utilizzato il test soltanto in processi relativamente a parti di sue dichiarazioni che ritenevamo riscontrate. Questi riscontri rimangono validi. Ci sono state anche sentenze nel quale le dichiarazioni di Ciancimino sono state ritenute valide e attendibili perché riscontrate, e naturalmente, ovviamente, quelle sentenze rimangono valide. Le dichiarazioni che lui aveva reso, quelle specifiche che poi si fondavano su quel biglietto che si è rivelato manipolato, falsificato, non sono dichiarazioni che non sono state mai utilizzate. Noi stessi avevamo già delle perplessità su quelle dichiarazioni, non le avevamo mai utilizzate, quindi da questo punto di vista il danno è limitato. Ecco, procuratore, soprattutto lei, dopo l'arresto di Ciancimino, è stato bersaglio di una parte del mondo politico, è stato criticato e attaccato. Ritengo di essere con la coscienza a posto, di aver fatto sempre il mio dovere, quindi determinati attacchi rozzi giunti fino al all'offesa, all'insulto, alla vera e propria aggressione politico-mediatico-giornalistica, mi pare che è del tutto fuori luogo e ben al di sopra delle righe. Il procuratore Caselli ipotizza anche che in un certo senso possa essere usata questa vicenda per dare un segnale ulteriore nella direzione di una riforma della giustizia. È un'opinione di magistrato molto autorevole, analisi che mi pare convincente. E condivisibile secondo lei? Secondo lei questa vicenda, questa di Shan Cimino, può essere considerata come un incidente di percorso per voi? Incidente di percorso no, non è la prima volta che noi incrociamo testimoni, le cui dichiarazioni sono in parte attendibili, in parte si rivelano non riscontrate, in parte addirittura costituenti ipotesi di calunnia, in questo caso procediamo. Non c'è mai stato nessun innamoramento della fonte, Shan Cimino non è mai stato da noi dichiarato come super testimone o teste super attendibile, questo magari è stato riportato così da qualche titolo di giornale, ma la nostra posizione è sempre stata coerentemente di valutazione molto seria e rigorosa, talvolta anche con serie perplessità, ma doverosamente il nostro volere è quello di acquisire tutte le dichiarazioni che possono essere in teoria, linee di principio, utili, verificarle però rigorosamente e utilizzare per i processi soltanto quelle che risultino riscontrate. E poi, nel caso in cui risulti addirittura la prova che siano false, procedere conseguentemente. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto. È stato spesso evocato in questi giorni di analisi, anche di polemiche sulla vicenda Shan Cimino, anche il metodo di Giovanni Falcone nelle indagini, e a volte è stato anche evocato da chi ha criticato lei, dicendo che appunto Falcone non avrebbe agito in questo modo. Lei che cosa risponde? Falcone ascoltava le sue fonti, procedeva nei confronti, ha proceduto in qualche caso per calunnia nei confronti di falsi collaboratori appena si è evidenziata la prova, e soltanto che nel nostro caso la prova della calunnia di Shan Cimino si è evidenziata soltanto dopo tempo. Nel momento però in cui abbiamo acquisito la prova, noi abbiamo proceduto con il massimo dell'energia, come si dimostra il fatto che abbiamo emesso anche un fermo d'urgenza. Chiaro che Falcone era Falcone, noi siamo soltanto dei magistrati che proviamo con i nostri limiti a ispirarci a quegli insegnamenti e a quel metodo, ma mi pare che il metodo nella sostanza sia il medesimo. Cioè, secondo lei il nome di Falcone viene usato un po' strumentalmente? Spesso vengono utilizzati strumentalmente i nomi di magistrati morti per opporli contro i magistrati vivi. Gli stessi magistrati, finché vivi, vengono osteggiati, come accadde anche a Falcone e Borsellino, poi invece da morti vengono osannati. Vedremo dove porteranno le inchieste per calunnia a carico di Massimo Shan Cimino, come le indagini sul conto dei magistrati che si sono occupati del figlio di Don Vito. Storiacce al momento si ferma qui, ma vi ricorda che sul sito radio24.it, nella sezione podcast, potete scaricare questa come tutte le altre puntate, comprese quelle con lo stesso Shan Cimino. Ci ritrovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul nostro audioblog. Ciao ciao a tutti, a sabato!